Che chiama? Non ho capito. Parla piano, sennò non si capisce niente. Cosa hai detto? Ah, ciao Mari, buonasera. Santiago 5, Radio 5. No, sono entrato stamattina, Mari. No. Sembra tutto ok. Un po' stanco sono. Forse ho riposato troppo, ma già mi riprendo. Ciao Mari, che antenna hai? Ma a casa sei? Sì, va bene. Beh, se sei a casa già va bene. Noi siamo sempre qua sul canale 10 comunque. Lo sai chi c'è? Se vuoi entrare noi siamo qua, così facciamo qualche prova, ok? Ciao Mari, grazie a te, ciao. Ehi, Natalia. Che? Aspetta, mi chiamo Vicente, Massimiliano. Sono andato a fare 5 stamattina, dopo un mese e mezzo, dopo un crollato. Lo sto accendendo adesso, però. Se mi salire, tu c'è bisogno che me ne devi avvisare a me. Boh, trovai di chiavi, entra, boh. Cos'è, che non bisogno più, entri. Va bene. Lo sai che no, non c'è bisogno che mi avvisi tu, Massimiliano. Sono sempre a casa io. Poi, che hai trovato le chiavi? Entra, fai quello che devi fare, in silenzio sempre, però. Ma te ti conosci, non t'abbaccia. Ma sì, lo sai cosa devi salire, no? Quella roba là mi serve. In settimana, capito? No, ma sì, sto a posto. Tutto ok. Non ti preoccupare, poi che ci vediamo con calma. Vai a fatti la doccia e sale, io così mi fai compagnia. Ciao, bello bene, a dopo. Secondo, e quindi c'ho circa 40 metri di cavo, 35 per rimasti in pochi, ma non solo qua, appunto riferimento anche dagli altri parti, ma non è che sto facendo molta attività, capito? Sono sempre qua sul canale 10 e basta. E beh, conosciute tutte io quelle persone che dici tu che parlavano qua, le ho conosciute tutte. Io stavo molto, passavo molto tempo con Domenico Clitter, lui era su alla poveriera di Montedoglia. Passavamo molto molto tempo assieme, così proprio a trasmettere al di fuori da Sassari. E mo non c'è più, e quindi, lo so, ce n'è. Vabbè. Allora si poteva fare, adesso, ui, e cosa fai? E beh, nel camion sì, è pieno sì. Nel camion è pieno sì, però oramai non sta parlando più nessuno, anche su canale 5, se tu stai la mattina in ascolto, io ero un mese e mezzo a casa, non c'è mai nessuno. Non c'è mai nessuno, Giuseppe, capito? Oramai con la scusa dei telefonini e altre cose, è finita. Via Raissa, a fior secondo sono aperto. Eccomi qua, sono tornato. Sì, aspetta Giuseppe, sono a tre. Ciao Giuseppe, d'accordo, al limite ci sentiamo dopo. Una è lunga. Vabbè, claro. Qua siamo, sto facendo qualche cosettina, mi sto preparando, ci ho portato il cane. Sì, sono arrivato 10 minuti fa, cazzo. Sto sistemando un computer, mentre faccio qualcosa qua, nel senso, tanto il PC sta andando da solo, mi porto 10 minuti, no? E Guido ogni tanto si blocca, poi si riprende, si blocca e si riprende, però sta sempre funzionando. Se si riblocca, vediamo un po'. Ho visto che i dati sono rimasti, non ho perso niente, perciò già va bene. Cioè si riblocca, in che senso si blocca? E nel senso che quando lo accendo non parte, allora devo spegnere, riaccendere un paio di volte e poi parte. È a gasolio. Ma strano, non ho mai fatto quel problema. Non so, cioè tu lo accendi, lui parte, non ho capito come fa. Non dà la fermata, dici. Esatto, ma non è nuovo, mi sto parlando del vecchio, Ah, dopo l'ho trovato io, no? Cosa, io sono di yo-yo, ah, boh, ma c'è nuovo, ma c'è strano, sto facendo pochissimo, quello è apposta, non ti preoccupare, sto parlando del vecchio, ti ricordo che te lo devo portare, il giorno prima l'ho portato, e dici che provo a accenderlo, però prima l'accendo mi ho tolto il pannello, e dentro era un mare di polvere, più che polvere lana, mi ho tolto gli spinotti, il coso, tutto pulito, soffiato là, l'ho attaccato, tutti i contatti e il ripartito sta sempre funzionando, però ogni tanto no, lo accendo e non mi appare la schermata, allora lo spengo e poi riparte da solo. Adesso mi stai parlando del vecchio, ma è nuovo, no, quello è un gioiellino, c'è stato un PC serio qua, vabbè, quello fuori. Poi ripeto, se uno il PC lo tiene conto, è come la macchina, no? Se uno la tiene conto, la lava, la pulisce spesso, e ti dura. Poi se la macchina tu la lasci sfoca oggi, la lasci sfoca domani, ti butti di un tutto e poi fa fine brutta. Beh, certo che sì. Ma io quello non so con dove si apre. Questo mi aveva dato Franco, figurati. Franco detta uno. Candido con il Pasco, l'avevo piazzato lui, ma ti parlo di un po' di anni fa, capito? E comunque in ogni caso sta funzionando adesso, vai. Sta funzionando, i dati non li ho presi, il cluster c'è, tutto l'ordine c'è. Tanto quello lì è solo per la radio, il computer, capito? Quindi mi interessa che ci siano quei dati, che non abbia perso niente. In un momento pensavo di averli persi. Perché l'altro è solo per internet, capito? Questo è proprio solo per la radio. Cappa, cazzo. Va bene, dai. concluse la battaglia tra questo, quello che lavoratore conclusi al lavoro, non so, però comunque è un PC veramente bombo, quella marca già è ultimo, è meglio di quello che ho qua anche. Lenovo, no, è nuovo, per carità, assolutamente, nuovissimo, di velocissimo anche, tra l'altro che già è quello, ma è un bel grande come computer di procedimento, quindi no, questo invece lo usa solo per la radio, capito? Quindi l'ho un po' lentino, ma comunque mi interessa che non abbia perso i dati e che funzioni. Poi per l'altro, sì, l'altro ce l'ho su internet, capito? Vado a vedere tutto su internet, c'è tutto il programma di lavoro, posso lavorare tranquillamente perché è abbastanza veloce anche come computer. E quindi va bene, però lo accendo poco, capito? Soprattutto a fine mese lo accendo, gli ultimi 3-4 giorni al mese, perché mi faccio le relazioni. Mi controllo tutte le giornaliere, tutte le cose, poi stampo, capito? Beh, claro, c'ho quindi la battaglia, e quindi lui usiva per fare la radio. Se io ho un po' un coppa, che è buono e va bene, però il tuo è molto superiore. Sai, il tuo è un i5 di processore, se non sbaglio, ovvero un i5, boh, non mi ricordo adesso quanto avevo dato. Non mi ricordo. Invece il mio è un dual core, va bene, perché va bene, l'ho resettato, l'ho cambiato la disk, 4 giga di RAM, tu conta già una disk da 500, quello da 1 terabyte, quello da 1 terabyte ho tutte le foto, tutte le cose mie, ecco. Però non è male, dai, poi il tuo è molto molto superiore. L'ultima cosa che io non è rimasto con poco nel computer. Poco mi piace, però tu mi avevi detto, però l'ho visto anche Vannino, mi aveva detto che era un grande computer, bello, bello tosto, capito? Sì, sì, sì. E io, sono le 7:05, tra un po' dopo un giorno, la signora, vediamo la cena. E io, no, io sto sulla Massimiliano, che quando sarei a Sassari passa sempre a trovarmi, e sono qua. Infatti non ho portato manco un cane ancora, lo porto dopo quando viene lui. Bene, bene. Ma sì, che questo radio, ma non lo tacci questo i computer, perché essendo un PC vecchio, un XP, ho messo Windows 7, a trovare i driver è un casino. Adesso, diciamo, sono riuscito a sistemarlo, là, tramite un amico mi ha dato una mano. E questi PC vecchi sono da buttare, boh, è inutile stare lì a perderci tempo, a lavorarci sopra, un PC lo fai un paio d'ore, sono andato avanti e ancora non ho finito, alla fine non mi conviene più farlo. Se vuoi tutto questo tempo già non ti conviene più, no? Assolutamente no. Il computer devi entrare, sì, devi cagare, la medinaccia, invece buon viaggio. Infatti. E adesso vediamo qua, cosa ne esce. E se no. E se no c'è la piglia, dove la facciamo? Tutto il giorno. Vabbè, siamo qua, non metto le scarpe. Via. Che? Non sente di giunta, gira. Tu te la cargo giù. Allora, tutti morti sopra. Di solito c'è sempre gente la sera. Io, Carino, Marco, Gianni, Valerio. Vabbè, c'era Giuseppe, poco fa l'Alghero. Tutti morti già. Sicuramente. Sì, già sono qua io. Mamma mia, cara. E beh. Tutto a posto. Tutto a posto. Ah, ma oggi, ma la chiede di battito a posto. Meno male, se no ero già. Ti ho fatto ricambio, l'ha detto. L'ho fatto stasera. Con calma. Ci ho messo 5 minuti nemmeno. Figurati tu, quando c'hai la mente sgombra, si fa tutto in fretta. Quando c'hai preoccupazioni, cose in testa, è un casino. E infatti adesso a posto funziona, meno male. Aspetta, dai, un secondo, un minuto solo, dammi, siamo qui, un minuto. Sì, fai, non c'è problema. E chi sapere che passo passo. Sandro, ci sei? Eccola c'è. Ah? Sei tutto a rumori. Sì, intanto sì. Ehi, già sono qua, ma tu vedi che stavi facendo rumore col microfono? No, assolutamente. Sto guardando un po' di monete che ho. Ce l'ho anche lui di Isabella, addirittura. Figurati. Isabella seconda. Due penne. Sì, aspetta che c'è Massimiliano qua, stiamo guardando una cosa al computer. Comunque sono entrato nessuno, Tagir. Tutto in coma, io. Però proprio, mi è stato guardando a vedere quanto valgono queste monete che c'ho. Sono quanto valgono, mi ha detto sui beni del vento. Controlla, Giorgio Inovia. Va. Oh, Finocchi! Ebbene, nessuno è entrato oggi. Io ero da Lidl, sono tornato adesso, parcheggiato, ho trovato anche posto. Prima di uscire alle 5 qualcosa, non c'era nessuno. E allora baracchino non ne ho messo, cioè era piazzato, ma antenna non ne ho messo, capito? E tuttora è vuoto, vedo. Nazarino, ci sono anche io, vai. Guarda il segnale, se come quello di ieri si è migliorato. Se mi senti meglio, dai, buonasera. Ieri 5 euro per fare. Marco, da te cosa sta mi fare? Da me Gianni? Già, qua non... Questo smitter è talmente corto che non me ne accorgo. A me sembra come ieri, non lo so. Avrei dovuto vederti attenuato. Come dai? Esatto, un attimo che si sta attenuando. Forse si è spettata che non c'è niente. Sì, già, dimmi. Era parecchio. Gianni, dimmi. Ma non c'è tutto il tabulotto, no? Beh, Claudio, in ferie, sì. Mortuori oggi. Prima di uscire non c'era nessuno, ritorno non c'è nessuno. La risposta Natalino e anche Gianni. Tutta la sera qua io, ve lo prego, tutta la sera che chiamo non c'è nessuno, la c'è Massimiliano, capito? E basta, sono tutta la sera qua io, adesso fra un po' la porta del cane e ve la prendete anche qua. Ciao a tutti, mi sto salutando Massimiliano. Ehi, ciao Massimiliano. E qua non c'era nessuno, chiamo e escono tutti, erano tutti all'ascolto e nessuno chiamava, capito? C'era Natalino all'ascolto, Gianni all'ascolto, tu all'ascolto, quindi cosa vuoi di più? E vabbè, dai, ho fatto una spesuccia, adesso sono a casa, ho trovato persino un parcheggio sotto casa, cosa eccezionale. Sempre vende spesucce, sì. Ciao Gianni, buonasera, avanti. E Gianni non risponde, bravo. Ehi, mi ha chiesto se il segnale era come ieri. Qua lo smitter è così corto che non me ne accorgo, non me ne accorgo. Vedi, potevi darglielo tu con lo smitter buono, però non risponde. Forse al telefono. Se mi fa vedere il segnale, le dico se è tutto a posto. Non so, ciao Natali, buonasera. Oh ragazzi, abbiamo trovato la gatta, era dietro l'angolo. Svolti l'angolo in via Gavino Matta e lei era lì, dietro le ringhiere che mi agolava impaurita. Ma cosa ti ho detto? Se ci sono già passato. Quando succede una cosa del genere, il gatto si spaventa e si nasconde. Capito? E mi agola per portare l'attenzione. Come ho detto, il mio era dentro un tubo che c'era qua, nel giardino. E io non riuscivo a trovarlo, mi sa che era molto. Capito? Va bene, comunque l'hai trovata, già va bene. Eia. Ma ha telefonato mia zia alle 9, io facciamo un giretto a vedere se la troviamo. Ho detto, ma se sono 2 giorni che giro, di notte, di giorno, di lì, sai quante volte ci sono passato lì? Di notte, di giorno, in quel punto. Non c'era mai, chiamavo, fischiavo, nulla. Facciamo 2 rampe di scale, no? Scendendo, 2 rampette di scale e sentiamo miagolare. Portiamo la pila della lì. Dietro l'angolo era, penso. Io già disperato credo fosse andata lontano, in zone magari pericolose, invece lì ci sono i giardinetti, capito? Era protetta anche dalla gratta, nessuno la poteva diciamo, nessuno le poteva fare del male. Vabbè, meglio così, dai. Guarda, contentissimi, dai. È come se fosse di famiglia. Gappa, gappa, è beh, normale, animale, animale, quando poi ti si affezioni. È così, è così. Gianni, ma questo lo facevo qualche lavoro? Ah, telefono, va bene, va bene. Tu Natalino, vita? Va bene, va bene. Noi stiamo facendo le chiacchiere come si vediamo adesso. Conosce lui, porto il cane e poi anche il Perugia è andata. Mamma mia che rientro, manca di lasciar perdere. C'è un tutto dolore, non ci ho fatto nulla, solo attende farendi, attende farendi. Un mese e mezzo fermo, è brutto, eh. Ah, oggi si è ritratto. Dopo alle 5 sono uscito. Alle 5 mi sono attratto, alle 6 sono uscito, sono rientrato che erano le 2 e mezza. Sono rientrato che erano le 2 e mezza, capito? Non c'è antenna lì, ma si vede. 40, sì, 40, sì, lo vedi. Ma c'è mia, sta cambiando il computer in 40 metri. Sì, sì, sono entrato oggi, oggi. Ehi, quando sei un bel fermo è un piccolo shock rientrare. Vabbè, riprendi. Riprendi Natali, meno ti mangiare anche il gatto di casa come hai fatto con quello selvatico. Ehi, ehi, vabbè Eugenio, novità dal fronte, ha fatto acquisti. Bravo. Eugenio, ci sei all'ascolto? Attenzione, rotta pignara. Mi, fatti dare un controllo a Claudio che ha lo smitter buono. Che è entrato, vai Gianni. Sì, è entrato, dato un controllo, dai. Sì, già 9.20, sì. Come al solito? Sì, con picchi positivi. No, adesso non so se pensare. Non so che cos'è, sicuramente dipende dallo switch. Perché ieri sentivo... Allora, praticamente lo splitter si muoveva. Però con le voci, la cosa da 8 ore, eccetera, eccetera, quando erano lontane. Ho sentito le voci e quindi adesso ho telefonato un amico e mi ha detto di aprirlo e di metterci lo stress al contatto che si deve essere uscitato questo grosso switch. Io già ti dico la mia, allora questo difetto a te avviene quando c'è vento, notato, capito? Oggi il vento non ce n'è, quindi l'antenna è ferma e non succede niente. Quando c'è il vento, secondo me, c'è il PL mollato. È da passare quell'antenna o già. Vabbè, si farà, però una cosa è certa, che uscivo con 9 watt come oggi e 1 euro di stazionale. Che mi fa stazionale, no? Che avrebbe la stazionale. Certo. Sì, ma l'altra volta tirava a stazionare già, perché era umida, capito? C'era tutta la salsedine e cose, invece poi si è asciugata. Però il fatto che ci sia la salsedine è proprio perché c'è il PL mollato. Bisogna scenderla già, pulire bene tutto, CRC, e rimetterla su. Non si staccano manco i tiranti, si abbassa il telescopico, si smonta il PL, si pulisce, si strisce bene e si rimette su. E si mette, si toglie tutto l'organizzante, tutta questa cosa, beh, rettamente metti quel grasso giallo, tacco varato sopra, e poi fa una parte, ne ci sono tutti così i PL. E me l'hanno detto gente che fa quei lavori, già lo sai chi, per non fare nulla, capito? Senza vulcanizzare niente. E tu vedrai che problemi non ne avrai più, perché se piove l'acqua non si attacca. Umidità nel grasso non ne passa e quindi rimane sempre così. Ma l'acceso ce l'hai fatta? No, non l'ho sceso ancora, dice Massimiliano. Quando va via Massimiliano lo scendo. Io da mezzo fino adesso, ma è fare sì, ma fa entrare la gente qui, che vado di più. Oh, io. Non già riusci. Mi prendi Marco lì. E io. E quindi, ma Gianni com'è? Come ieri, Oh, qua arriva sempre forte, non so. E insomma ci voleva lo smitter del Kingwood per vedere differenze. Con questi smitter ridicoli di 3009 non si vedono le differenze. Però ti posso dire che sei forte già. Sei ben oltre il 9.15, anche il 9 oltre il 9.20. Cioè ecco perché io non vedo differenze già. Sembri 9.25 di segnale, in poche parole, mi. sì, no, perché oggi mi fanno solo i forti segnali, proprio. Adesso lo faccio scaldare un po', vediamo. Fino alle 8, ma non manca molto, ci manca un 10 minuti. Faccio scaldare un pochettino, vediamo se scalda se lo faccio bene. Eia. Ok, aspetta che alzo un po' di squelch, ecco qua. Ma dove vedi dal medico? Non ho capito bene. Hai detto invece delle 6 mi ha fatto entrare alle 7.20. Dal dentista, ma non ho fatto assurazione e niente. Ho dovuto aspettare un'ora, un'ora e 20 minuti, non lo so qui, ma mi dice una cosa così. Dice, non è che puoi tornare lunedì, no? Io ci sono già un'ora, a casa se torno anche lunedì, no! Però devi avere pazienza, e neanche non la pazienza, non lo sbaglio di male. Un attimino arrivo. Eia. Mi ricordo che il dentista, quando andavo dal dentista, adesso dovrei fare una bella passatina, no? Era il figlio, no, non figlio di Ventura, era un altro. Ti davo l'appuntamento, che ne so, alle 5, lo dava a tutti alle 5, no? Invece di dire 5, 5 e mezza, 6, 6 e mezza, in base ai pazienti, tutti alle 5, poi arrivavi lì, dovevi aspettare 2 ore e mezza. E che appuntamento è quello? Appuntamento multiplo è, che senso ha? Tutti fanno così, anche non anche la giovane la sapeva, alle 6, e anche io c'ero alle 6, ma non è che c'ero alle 6, c'ero alle 6, e dopo loro, in base a quello, loro li fanno, ce l'hanno tutti presenti, di modo che ci siamo tutti e poi li chiamano piano piano. Eia, e quello non è un appuntamento. Appuntamento vuol dire che arrivi, ma dico massimo mezz'oretta, entri. Non che entri dopo 2 ore e mezza, è una paranoia, poi in certi studi c'è un caldo boia, che se vai come vestivo io, con la camicia felpata te ne scolo gli occhi. E vabbè. Natalino, riprendi. Dai, io vado a portare il cane, se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Ok. Vado a riparare. Ho fatto questa mandata e adesso mi tocca riuscire a portare il cane. Perché il conduttore alle 6 e mezza potrebbe tutti dire, ma invece ci ho fatto tutto. Leia, sei bravo, così italiano pure alternative. No, veramente il dottore, il padrone è un maschio. Io avevo la una donna e anche una bella donna. Ah, quindi lei ti fa l'otturazione e tu la fai a lei l'otturazione? Ah, bella brava. Una brava ragazza. Giovane anche. Una persona mattina d'anno. Guarda che cosa sta per mangiare la tua intenzione. Scusate, c'ho la cavallata, c'ho la gola. Cosa volevo dire, boh? Vabbè sì, che appunto il gatto è stato trovato, guarda, una gioia. Sono riuscito a tirarlo perché non volevo uscire, era un po' come stato di shock, no? Mi agolava. L'ho tirata con la pila, facendolo vedere il punto luminoso della pila, sul muretto, no? Perché lì ha tirata là. Allora è venuta verso di me e c'era un'apertura nella rete metallica, alta 20, larga 10, e ha messo fuori la testa e le zampe, l'ho presa, l'ho portata in braccio, mamma ha aperto la vista, e guarda. E naturalmente chi non ha la passione degli animali non lo può capire quanto ci si soffre quando un animale sparisce o sta male. Io glielo capisco. Quindi l'avete trovata, ma che come fate a trovarla? Già, abbiamo girato l'angolo di casa in via Gabino Matta, lì quelle scalinate e scende. Facciamo 2 rampe di scale e sentiamo miagolare. E infatti sembrava il miagolio di Flo, no, quando è spaventato. Puntiamo la pila, così a Paolo ha detto, mica quella è Flo, puntiamo la pila e infatti era lei. Se ne manda, dietro l'angolo di casa era nascosta, ed era dove ci sono i giardinetti, no? È il punto preferito di gatti, dove ci sono i giardinetti c'è anche una, diciamo, una, un cancello, un'inferriata che li difende, diciamo, da intrusi, capito? Cani o persone cattive. È stata nel punto più sicuro di questa zona, diciamo. Guarda un po'. meno male, guarda, meno male. Infatti poi quando è entrata a casa di sera, erano le 9, 9 e mezza, si è sdraiata nel corridoio, sdraiata come per dire proprio per rilassarsi, mi dà un'avventura, una brutta avventura, dai. Poi prima era un po'... aspetta un attimo che mi scappa il microfono. Prima era un po' così, no, sai, quando ancora non carburi. Poi piano piano ha cominciato a mangiare, a bere, a giocare anche. Mi ha fatto spaventata, è normale che sia stata a mangiare tutti i giorni. No, poco, guarda, praticamente è sparita alle 4 di notte, no? Poi l'abbiamo cercata la mattina dopo, la sera dopo, e poi il giorno dopo l'abbiamo trovata la sera del giorno dopo, quindi è come fosse un giorno e mezzo in realtà, un giorno e mezzo. E là, è stato fortunato, anche quella dell'ultimo piano era scappata, io l'ho lasciato il portone aperto. E praticamente ci ha trovato la porta, l'ho terminato, grazie, grazie, grazie. E quello c'ha 19 anni, grazie. Comunque, vedi, il gatto non veniva verso casa perché aveva paura dei rumori delle macchine, delle persone, cioè rimaneva lì spaventato a miagolare, non veniva al portone. Perché lei, la prima volta che è stata abbandonata, ha fatto così. Quando lei era più piccolina, no? Porto era di gente di Polo Torres, come è rimasta incinta, l'hanno abbandonata incinta, capito? Invece di farla perlomeno abortire, se proprio non puoi tenerli, l'hanno abbandonata e lei, impaurita, si è nascosta quasi sopra una palma. Ce l'avevano detto, siccome non andava d'accordo con gli altri gatti di strada, si era nascosta sopra una palma, un albero, una palma, no? E alla fine, insomma, siamo andati noi a guardare i gatti e questa era, si faceva toccare, cioè non sembrava un gatto di strada. E mamma allora l'ha voluta portare a casa, prima non volevo io, poi la seconda volta ha detto portiamola, dai, poi come va, va, vediamo se si adatta. Infatti si è adattata, capito? Anche questa volta però era impaurita, non girava in strada, non veniva verso il portone, dai. Vabbè, mi aspetta che la prendo. Miagola Flo, miagola. Miagola Flo. La senti? Vai che non è libero. E quando la tengo forza fa... Guarda, lei è una gatta che miagola ben poco. Miagola solo in certe occasioni quando vuole attirare l'attenzione. Vieni qui, Flo, vieni qui, vieni qui. Ah, così fa. Mi sta venuto a chiamarmi. Ora, se ho sono così. Beh, un po' male, mi è venuto a chiamarmi, guarda, mi sta tutto leccato per andare giù. Andiamo su stagionino, mica si punta con noi, che abbiamo proprio uscito su stagionino, quanto ne manca? Deia, sono Milo, mi facendo da Milo, Gesù. Aspetta, dai, che vado. Vabbè, facciamo così già, tu vai a portare il cane, io aiuto mamma a disfare la spesa e poi mangio direttamente, dai. O quasi direttamente, andata lì, poi vediamo, io lascio acceso tutto. Lascio comunque acceso tutto, quindi se rientra Claudio vediamo se parliamo un po', dai. Qua lascio acceso, ciao a tutti per adesso, ciao. Ciao, ciao Marco. Poi stamattina hanno fatto la notizia, non mi ha svegliato, non mi ha detto niente, una bagaglia. Eia già, ripeti Natalina, avete parlato in due, buone, e pensa che io devo ancora pranzare, pensa, e beh, l'abitudine brutta nostra è quella, dai, però, oggi ci mangiamo hamburger simile McDonald's, però fatto con gli hamburger buoni, panini tipo McDonald's, no, quelli tondi, poi ci mettiamo ketchup, abbiamo anche il citriolino da affettare da mettere dentro, capito? Da bere Coca-Cola, ok, va bene, ti saluto Natalia, io lascio tutto acceso per il momento, ciao, a dopo, ciao, nel caso a dopo, nel caso. Ma rimani acceso, ti sempre in giro le tutti e due. Gloria. Ah, me la manca. Ma sono uscito io stasera. Sono fatto un giro, sono entrato poco fa. Poi lavoravo per le monete antiche che ho, e ho un centesimo del 1933 di Vittorio Emanuele III, lei sa voglia, trovato in campagna. E ho anche un dollaro in argento, 4 di dollaro e mezzo dollaro. Adesso mi metto su eBay e faccio fare la valutazione, prima che mi offri di più, gli mando. Ma che non so neanche io, quando li posso portarle per valutare questa roba qua, non lo so. Quindi altro interfattore, forse dunque interfattore, forse questo di Emanuele, all'angolo. Già ci vado, faccio una passeggiata al limite domani, là. Faccio un giro, domani sera, e ve lo... ti porto un po' di malette e vediamo quanto me le fatto mi dà in tutto. In conseguenza di Emanuele o no? E vabbè, già vado in piazza a Torre allora. Ah, ho capito quello che vi sto dicendo, che c'è... allora, da testa sola scendi, poi giri a sinistra. In pratica c'è il... adesso ci dovrebbe essere il coso, un ritrovante, non mi sbaglio. Vabbè, domani ci faccio uno scopo. Ho già capito dove ti dicevo tu, cioè, adesso. Vicino alla scuola. Domani c'è sera, mi faccio un giro. Mi porto un bel po' di monete. C'ho 3 pesetta, se lo sai, 25 pesetta. Quelle che facevo di ex degli anni 80. L'ho trovato. 10, 5, 25 pesetta. Natalino? Ci volevo dire. Quanti alberi abbattono per fare i dollari? Lo sai? Di cosa è fatto il dollaro? La risposta è nessun albero, perché il dollaro non è di carta ma è di cotone. Guardalo bene, guarda come sono le fibre. È una particolarità del dollaro, è di cotone, fibra di cotone. Quindi non abbattono nessun albero. Sì, comunque quel negozio di numismatica me lo ricordo, ci andavo anch'io. Capito Antonio, tu sei in piazza Tola, prendi la viuzza centrale che scende giù e fa a gomito, no, la via. Sa, e poi gira a sinistra e si mette al corso. Lì all'angolo c'è... Caspita, esiste ancora, io c'ero andato 20 anni fa ai Piumi da quel signore, ed era già un po' grande, a meno che non ci sia il figlio adesso che abbia ereditato. Domani faccio un diretto, credo che torno di sera, mi faccio un diretto. Comunque ricordo che ho fatto un accidente, i 500 di 1000 lire in argento non valgono niente. Mi hanno dato stasera intorno a 50 euro mi hanno dato. Sono rientrato, eh? Ehi, Claudio, è l'uovo! L'uovo non serve a nulla, è una cazzata mi sa. Io con le monete da 1000 da 500, ne avevo 9, mi hanno dato stasera 50 euro. Ma è Claudio! Come dici, per me sto mangiando. Certo, sembra che ti stavo infilando un coso in culo qua. Marco. Avanti Claudio. Sparito, un secondo che vado subito a dare un controllo a Marino Lonzino. Dietro subito, Marco, ripetito. Niente, sto mangiando. C'è Natalino, Claudio, riprendi con Natalino. Un attimino mi stavo cambiando più che altro. Mettiti nudo a parlare alla radio. Io lo metto. Oh, non ti fidare allora, Natalino. Non ti fidare, capito? Cioè c'è quello là, usa quello là. Non è una cosa. Antonello, vieni al 10, cosa ci fai lì? Ti marco stretto, ti metto la portante che. Sono rientrato. Cazzo, devo 5 se sono, la ottava, tu. Vedete che siamo andati a messa male. No, una gaggata di Santena, non messa male, capito? Vedi adesso. L'ho dato già io il controllo, Santiago 5 lo stesso. Gli ho già dato. costruita, io pensavo che fosse l'ampio 27L, cosa ne so? Manco io ne so, non lo so io, ma penso che sia una di quelle costruite, cosa ne so, comunque, arriva troppo basso, c'è qualcosa che non va, qua deve arrivare 9,20. Se l'antenna è a posto, se è buona e se funziona bene, capito mi hai? Via, capito tiro. Ma non arriva 7,5 di tranquillo, c'è qualcosa che non va. Perché DGV non arriva tante volte a me, figurati. 9,9,10, dipende da cosa, è la pari che attacca. Due ottava, è arrivato più forte in PMR che in corso, questa. Adesso vai, passa qua a casa, non c'è metto di occhiere che antenna è. Al limite ti faccio comprare una BA 27L, costa 80 euro e se piglia quella e gli attacco io. Almeno è tranquilla, se non ha problemi. Ci vuole una mezz'ora per fermare quella antenna, non ci vuole neanche molto. Io non capisco, c'è tutte queste antenne riciclate, tutte. Bisogna comprare già di una nuova l'antenna e metti la nuova. Cosa stai con queste antenne riciclate? Antenna vuole nuova, vuole, e poi ci vuole avanti, qua ci vuole. Oppure una energy, qualcosa del genere, quella non serve a niente per me. Ma basso, baromette, esce un bel basso, arriva basso qua. Arriva meglio una tannina con l'antenna interna, che strano, eh. A meno che non abbia la bazooka, quella che è un carico fittizio. Scusate. Non ci vuole molto a farla. 5 metri 50 di capo, giusti giusti. Gli attacchi un PL, un pezzo di tubo di ferro per fargli la massa, gli attacchi due gambe e un tubo di plastica. Boh, la bazooka è fatta, è che l'ho costruita io. Stazionale è 1,1. Con un cavetto elettrico da 1,5. Non so. Sto dicendo io, l'ho fatta a cosa, l'ho fatta. Te lo ricordi che amico, non usava mai quella massa, mi era attaccato alla cassetta della pila di plastica, dentro al circolo, a fianco a dove vai a fare la pipì. La papaya. Sì, caspita, l'ottava. Ma che antenna è, si sa? Questa che usa Marino. Che tipologia? Non lo so, non me la vedo, adesso domani la vedo dopo, che antenna è, te lo chiedo. Una volta esisteva un'antenna che sembrava un'antenna marziana, era lunga 2 metri o 2,5 metri e c'aveva questi dischi tondi a certe altezze, no, sempre più piccoli man mano che andava verso la punta. Un'antenna così strana non l'avevo mai vista. Sì, già ho capito, l'ho vista anch'io, chi la faceva? La Intec mi sembra la faceva, non la vedo, non mi ricordo. No, forse la Intec. Aspetta, con l'ultimo letto, vediamo fuori, così incontro la faccia funziona. A chi l'hai rubato? Vabbè, attaccalo, poi me lo dici. Boh, io ripeto, sono più che convinto che l'antenna voglia una nuova. L'antenna riciclata, a me è un po' come piace. Sì, lo so, perché qualcuno magari si fa dare antenne vecchie, no? Smontate dopo 20 anni dal tetto e conservate, non sono antenne vissute. Un'antenna, ma sai mi vuoi comprare un'antenna? Un'antenna mezzo onda, 5 ottavi, quello che vuoi. Mamma mia. Bene, bene. Sono contento della serata, dai. Natalino, riprendi. Aspetta, guarda un po', come sto uscendo? Marco. Sì, io. Come sto uscendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Radio normale, come ultimo dei tre, diciamo. Sì, parla un attimo, qua. Guarda, vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cazzo, devo mettere il locale, aspetta. Ti metto il dito. Che sei stato l'attivo? Evidentemente c'è il problema di apparecchi. Siamo una mobilità addosso, questo apparecchio è una cosa allucinante, ho cambiato un po' il film. Aspetta, sto guardando. Adesso sta andando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sta tutti bene. è perfetto. Tipico del multimode, con segnali forti saturava, capito? Tipo Sandro Satellite satura, bisogna mettere locale. È normale, c'erano tutti i multimode quello, con la caratteristica. I canali che non lo uso, me li ricordavo più, figurati tu. Ma è tuo? No, di Battisio, vabbè, sta a posto Sassetto. Ehi, senza bip è notto. Ah no, si può togliere il bip e mettere a multimode. Ah, è vero. Un cazzo lo posso togliere. Ah, me lo vedo tolto, ok. Prima ho fatto... Bene. Ok, allora già è a posto. Ciu. Fate per bene il microfono applicato da te, quando vedete va bene il quadro del corso. Hai detto appena la prova. Fai Antonio, fai tutto quello che vuoi. Già siamo qua. Mamma mia, sempre facendo la pipì da pupù questi gatti. Mangiano e fanno la pupù, non fanno altro. Riprendete un po'. Aspetta, collegando l'altro computer, sono qua. Non c'è più dove abitare. Tu non gli va bene un microfono, ma con quello delle cose gli va bene, immagino. Adesso proprio quello del video, per esempio. Purtroppo, no, Antonelli, c'hanno dei poli particolari. Capito? Hanno proprio una connessione diversa da quella normale, capito? Sì, una volta di un copo vediamo l'audio. Mamma mia, che bisogna dire di lui, è una carbonata per l'infanzia. Tre fatto sta. E se no quello che c'era, cosa, Giuseppe Velasquez. Roberto Lazzo. Vabbè, ero circondato, non ci va a sentire neanche un cane. Poi avevo veduto questo, mi avevo preso te. Il 2009 meno male, ho pagato, non mi ricordo male, 300 euro, una cosa del genere. Sì, riuscì. Anzi, la seconda stagione oggi. Il massimo dei tre l'avevi comprato da me. Mi pare 200.000 lire. O 250. No, 200 credo. Sì, il motivo dei tre... A quei tempi era un incubo perché tutte le persone in forti ti splatteravano, sentivi intermodulazioni su tutti i canali, sentivi più voci, no? Invece vedi, il 3009 non fa così, il 3009 è molto più silenzioso, ti chiamano splatter, meno abbattimento. E adesso d'accordo. Boh, i filtri, non lo so perché, è stato progettato in modo diverso. Vedi, adesso è il multimode 3, problemi non ne dà, perché non vedi nessuno sugli altri canali. O meglio, vabbè, c'è qualcuno su altri canali, però siamo pochi, dai, siamo pochi. Vabbè, quello sì, è vero. Vabbè, ho portato la cucca e si sta mettendo la porta. 3 mesi che ho messo a chiamare, 3 mesi. Vai così a lungo di cammino, infatti un altro dove di tutti sono qua delle imbarche, non vale il punto giusto, casino, quando c'è umidità devi farlo due chiare, almeno 2 mesi a fare. Sarebbe stato bello comunque avere un ultimo dei tre tenuto perfettamente, capito, da allora, sarebbe bello perché a parte la ricezione del battimento da altri canali, ma ormai non c'è il problema. Insomma, una volta gli aumentavi l'LC, usciva abbastanza degno, usciva normale, dai. E c'aveva tanti canali, c'aveva le bande laterali, insomma, magari pochi watt aveva, no? Quanto erano in banda laterale? Sempre 4 o un po' di più? Non ho toccato questo è 0,5 e 4. Allora, così no. Aspetta, 0,5 e così sono 4 e così si può pressare. Che non fa nulla il compressore? Sì, ma è solo per comunque a noi era piaciuto l'ultimo dei tre nero, poi aveva la lucetta dei canali positivi quando andavi oltre, cioè, quando andavi oltre l'80 non si accendeva la spia rossa, come dire, occhio, che lì c'era la panda avanturiale. Poi aveva canali negativi sempre con la spia. E poi intelligentemente, rispetto a questi 3009, come i numeri negativi della matematica, aveva i canali. Cioè più aumentavi di canale, più andavi sotto, capito? Come giusto che sia, perché quando uno dice sono 10 canali sotto l'1, deve essere 10 canali sotto l'1, capito? 500 kg sotto l'1. Era un metodo molto intelligente di mettere i canali. Perché lì c'erano sempre 40 canali, banda A, B, C. E per trovare la corrispondenza dei canali ti dovevi sempre azzuffare, ti ricordi? Sì, già lo so, mi sono stato concentrato. A me è capitato, sai che avevo questo coso, questo lavandino di microfono, le bica, le altre funzionano, questo continuo, funziona sulla porta, se lo parlo. Sì, mi ricordo che all'epoca mamma, siccome ci avevamo, insomma l'ultimo dei tre, poi c'erano apparecchi tipo il 3009, poi avevamo anche i 34 canali con i canali di sotto, lì si era fatta la tabella di corrispondenza del multimode, dei canali sotto del multimode, dei 3009 che è simili e dei 34 canali. La corrispondenza dei canali sotto si era fatta, una tabella, capito? Pensa, non l'ho fatta io, l'ho fatta lì, e ne sapeva mia all'epoca. Mamma, adesso si è dimenticata tutto. È passato tanto tempo, dai. Attacco Midland, aspetta che attacco il microfono al tavolo, 2 minuti. Ah, attacco Midland, minchia. Attacco Midland. Eia. Quelli li faceva la Cybernet, mi pare, lo stesso. L'LMS200, la Game Quinto, erano tutte, anche multimode credo, tutte a schede Cybernet. Purtroppo nessuno ha rilevato il progetto, mentre il 3009 no. Esiste da 30 anni, lo rifanno sempre nuovo, no? È aggiornato. Queste schede Cybernet non le hanno mai più riprese ed erano fatte in Giappone, quindi made in Japan. Poi hanno cominciato a fare made in Corea, le altre marche, però purtroppo le schede Cybernet sono sparite per sempre. Mi dispiace molto, c'erano tanti apparati validi, a parte che prendevano splatter, ma chi se ne frega, tipo il Major Echo, poi c'era il Tristar 848, ma te li ricordi Claudio? A me piacevano da matti quegli apparati, ma i prezzi, minchia, 400.000 lire. Un bel costava. Aspetta, ti mando quello che ho preso stasera, così lo vedi. Ah ok, sì, ce l'ho qua la connessione, metto, ecco qua. Ecco, lo poggio qua. Aspetta, c'era un messaggio. Ah no. Di Eugenio, è di ieri il messaggio. Eccolo qua, sentito in diretta, tiri! Sì, sentito. Sto fischiando, va bene, sentito. Ah, riesci a vedere. Qua c'è il Telsat Lafayette di, forse di Massimiliano quello. E sotto cosa c'è? Ah, il DAC è quello, giusto, il DAC. Mamma mia, il DAC è spettacolare, Claudio, è spettacolare con questi quattro strumenti, il barium lineare proprio. Ma l'hai preso tu quello, il Telsat? Sì. No, è spettacolare, ma se sopra il DAC. Vabbè, non ho quel cromato, capito? Anche il DAC è cromato. Sì. Se non voglio attaccare l'antenna domani uso quello. Così lo facciamo andare col microfono normale a vedere come va. Sì, bello, questo c'è di 140, non ce l'avevo quello. Bello, devo andare. Senti, quanto molto bello, anche come cassone, bella. lucido. Marco, come sto scendendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. Bene, che microfono è? Un microfono di Bertola, autocostruito. È stato piccato così, tanto per dire. Com'è la modulazione, buona? È leggermente più forte di prima. Prima era un microfono normale, qua è appena appena più forte. Claudio, come la trovi tu? 3, 4, 5, 6, distanza 20 cm, così sono vicino. 3, 4, 5, 6. Tu stai a 5 cm e vai di lusso. 5 cm, 2 dita, 3 dita, dai. E vai di lusso, dai. Quindi va bene così, 1, 3, 4, 5, 6. Come la fa con me durante questo? Pavarocci. Sto usando quello di... il microfono della buona anima di... la pancuffia di Silvestro, di Polottone, me l'aveva regalato lui. Buono, buono. Claudio, ti dicevo, sì, quello, vabbè, devi... le bande laterali bisogna metterle a posto, una volta messe a posto c'è un apparecchio completo. Oh, è grandetto, sembra grandetto, no? Ma quando guardi il DAC, se quello è grandetto, il DAC è enorme, spettacolare. Ma guarda che fa... per volte sicuramente è molto bella quella, io non ce l'avevo come quella, c'ha 40 normali, 40 sotto, 40 sopra, mi interessa la banda laterale, ma c'è una che pare ma laterale vado col baracchino, ma poi vado con questa, non mi interessa, lo farò controllare, ma sarà sicuramente qualche fessidia, però in M va, c'è una cannonata, non so se c'è MFM, qui simbolo deficiente che no. Ma non so se te l'hanno mandato su WhatsApp. E io ho visto tutto, io quello, ho visto anche l'altro. L'ho visto. Dai, dai, altro. E che quello lo toccava, dice, papà, ma mi tocca, e tu? Tu, com'era? Condividi, è la passione del cinema, dice, ma mi tocca anche quello dietro, insomma, gli ha fatto, ti ricordi cosa gli ha detto quello lì? Ciao, te la sei lavato il pisello? Che attore che è questo, è micidiale, è un attore micidiale, per carità di Dio, dici che attacco questo testo, un attimino. Aspetta, ma quando entra il padre in camera il figlio dice, Gianluca, te l'ho già detto oggi che sei rincoglionito. Allucinando, attaccalo dai, proviamo. Ehi, che al cinema ha detto, papà, come mai ci sono queste croste bianche? Oh, quella è la condivisione del cinema, capito? Era roba secca sulle poltroncine del cinema. Adesso lo cerco, riesco a vedere chi è che me l'aveva mandato. A trovarlo adesso. Vediamo se era Claudio. A ricordarsi hanno detto. No, lui mi aveva mandato Trump, mi pare. Il figlio di Trump, no? Riesco a vedere. C'è poco lunga sta lista. Mamma mia, c'era quello che... Fussi, manco lo voglio vedere. Radio, Trump, vediamo, no, non c'è mi pare. E allora me l'ha mandato qualcun altro, adesso lo cerco, dai. Ehi, Avenocce, mi ascolti, sono con la radio piccolina, cambio, non mi ascolta più in certo modo, ma... 7WR. E beh, bene, mi ascoltate? Sì, sembra una radio normale però, ma che è una manetta, eh? Sì, tutto manetta, tutto manetta. E fate il microfono normale questo, eh? Microfono normale, capito? Ah, ecco, sì, normale. Sì, lì poi basta mettere, importante che ci sia la LC della M aperto, il trimmer, una volta che si mette un bel amplificato, anche un MB più 5 o più 4 va bene quello, perché è chiaro come modulazione, capito? Sì, è chiaro, è chiaro, questo sto facendo la regolazione, molto. Chiaro, questo cos'è? Aspetta, metto 7, forse qua, ecco, vediamo, 0 e 7. nazionali. Eia, stranamente non mi trovo quel video. Non l'avevo cancellato per sbaglio, no? Che strano. Ero convinto di averlo su questo telefono. Ah, ho capito tutto, è sull'altro telefono. C'ho due smartphone. E avevo trasferito la scheda dall'uno all'altro, capito? Quindi è nell'altro telefono, ok. E dopo me lo riguardo. Sì, bene, bene. Quello con un microfono bello amplificato, magari usa Delta, mi serve, cresce bene. Ma devo cambiarle il coso. 7, 7, 7, 7. 7, cosa cazzo ho toccato con 7. Forse quello. Molto cazzo. Non mi ha detto niente, ma ci siamo. Non so se dovevo tenere così. Va bene. E infatti sono... sono 10 watt, quanto ti sto arrivando? Claudio, come ho detto a cosa Gianni, qua non cambia molto, però fammi vedere un po', vediamo se è leggermente differente da prima. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, guarda il segnale, vedrai quanto è. No, sempre sul 9.30 qua, il segnale massimo che può dare sta palazzo, capito, forse... una infinità di meno, è una cosa proprio di meno, no? Se ne hai 10, magari qualche modo ne hai 30, non cambia nulla, mi sei fondo scarto. Ai, positivo, questo da invece 10 watt. 10 watt, va. Sì. 10 watt. 10 non picchia 12. Va bene, dai, per fare due chiacchiere già va bene. Però la modulazione com'è? Buona, 5, perfetta. Non mi sto ascoltando, bisogna che metta l'altra radio a ascoltarti. E com'è la ricezione? Ha un bel altoparlante frontale, vedi come mi senti con questo MP+5. Allora, devo dire una cosa, che ti sento molto, ma molto, molto, molto bene. Ma bene, c'è una ricezione favolosa. Ricevo meglio della colonnina esterna del 440, con l'altoparlante suo. Veramente eccezionale, Sarrazzo. Ma bella veramente, bella. Funzionamento ad hoc. Natalino, prova a parlare. Fatti sentire da Claudio con quell'apparato. Santiago 9 è pieno, è anche preciso come segnale, tu sei 9.30 con picchi quasi a 35 o Marco, è Natalino lo stesso segnale del 4.40, Santiago 9 con picchi a 9.5. Eia, è bel apparato, dai, poi vabbè se non ti interessa la banda laterale, ma sai era per averlo bello tutto a posto, capito? Ma se lo usi in AM ce n'è d'avanzo. Ascolta, quanti pin ha il microfono? 4 pin oppure di più? No, è quello in mezzo, quello in mezzo, infatti qua mi faccio fare la modifica, ma lo metto a 4, capito? Quello in mezzo, non so se a 5, 6, 5, capito? Volevo vedere Antonello quanto arriva, se non mi balla lo smitter. Antonello? Dimmi. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sopra il DP, sì, dai, più o meno come il... non va a fare la scala, corretti che tu fa bene. Ottimo, bella, ragazzi, veramente, sono contento, va. Sono contento di essere contento. Terza, TSSB 140, molto bene. Eia, ma hai comprato i soldi o hai fatto cambio? I soldi, cosa cambio? Cosa vogliamo fare? Soldi, soldi, soldi... Bene, così hai un apparecchio in più e riceve anche bene, addirittura migliore della colonnina del 440, minchia, ho visto che è frontale ed è rettangolare, mi pare, no, l'apertura per l'altoparlante, sì, a spina è feo, dai, fatti fare la modifica, lo metti a 4 poli, oppure come ti viene meglio a te, non lo so. E per esempio il DAC, quanti poli è? Il DAC è a 4 poli, anzi mi sto mettendo le cuffie e mi voglio ascoltare col DAC, state senza pena. Il DAC è a 4, capito? Potresti fartelo dentro, da dentro, te lo puoi fare cablare come il DAC, cioè stessa capetto ricezione da missione e capsula eccetera, no, la portante e tutto, se lo fai fare quella, oppure se hai altri apparati dove usi microfoni di un certo tipo te lo fai fare, insomma come vuoi tu te lo fai fare. Ok, buono buono. Buono, riprendi. Natalino, se ci sei ancora, dai, se sei stanco, poco di più, dai, ci sentiamo domani, oggi, vabbè, non c'era quasi nessuno, prima io sono uscito anche, il baracchino non ne ho messo perché non c'era nessuno, il baracchino prima, no, non ho messo l'antenna, diciamo, ecco. E tanto ero da dentro Lidl, quindi ben poco potevo fare. Ok. Ciao Natalino, saluta Natalino Pomponius. Ma se non me lo la portante. Appunto. Ciao Natalino, buona, ci sentiamo. Ti metto a mangiare un panino. Veloce. Ciao, una fame. Ciao Natalino, ci sentiamo, dai, tante cose belle. Ehi, ma già funziona comunque, dai. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, aspetta che tiriamo sul volume, eccolo qua. Va bene, non problem, ottimo per la truppa, gappa. Eia, che ora sono? È l'ora del film quasi, ammesso che ce ne sia uno bello, dai, mi sa che chiudiamo. Tu vuoi mangiare, Pomponio sta già mangiando, Natalino è stanco. Esci a vedere qua, una foto ha messo Luca sulla conta, esci a vedere. Ah, ok. Ma c'ho dei contatti su WhatsApp che non conosco, che magari gente che mi aveva dato il numero 20 anni fa, boh, ce l'ho qua ancora, pensa. E non so chi siano certi. Bene, bene. Vabbè Claudio, dai, ci sentiamo domani. Oggi è mercoledì. Ok, dai, va bene, ci sentiamo. Ciao Antonello, Pomponio, ciao Claudio anche, e tutti quelli all'ascolto. Gianfranco compreso, sicuramente all'ascolto. Ci sentiamo domani, dai. Ciao Marco, dai, ci sentiamo domani. Andiamo al supporto qua. Adesso mando la foto a Gian. Ma Lucia è più lucida. Le cromature sono più lucide del DAC. Come nuova questa radio? Adesso una spennellatina. Pomelli tutti stessi. Va bene, dai, ci sentiamo. Ciao a tutti, QRT anche per me, vado a cenare. Buonanotte, a domani, cambio cambio. Ciao, ci sentiamo domani. Già. Sto mangiando, ci sentiamo domani mattina, domani sera. Buonanotte a tutti. Ciao, ciao Antonio, a domani, ciao ciao. La radio va bene Antonio per te, sì. Ciao Luca, ho capito quale radio è. C'è la dispersione del destino e la cromatura avanti. Sì, molto bella Antonio, veramente molto bella, dai. Ok. Va bene, ci sentiamo, ciao a tutti, buonanotte, bye bye. E io ciao. Bye bye. Pomponia. Dimmi, non sono qui. Ma non te ne riandendi? Sì, un attimino, che mi stavo grattando una parte intima. No, non so se l'hai fatto tu Claudio, gli stavo mandando la foto della me, la foto di quell'apparecchio tuo, più il DAC. Capito, l'ho mandata già, non so se hai fatto prima tu. No, l'ho mandata già io che la volevo... Ma è nuova, è nuova, nuova, veramente. Adesso ho una facciata di pronto, quello per i mobili, sopra la cassa. È nuova, nuova, veramente, grande affare. Poi funziona, che è una meraviglia, e c'è una ricezione favolosa, veramente molto bella. Eia, beh, un bel apparato, molto bello anche di estetica. Certo che le dimensioni del DAC sono veramente allucinanti, allucinare, proprio il DAC pare un lineare grosso pure, quella è una rarità, veramente una rarità, non so come abbiate fatto anche a averlo, a trovarlo, ma dogana avevate pagato su quegli apparati il DAC quando li avevate presi con quell'altra persona? Guarda, i DAC li ha portati a Sassari Walter, questo a me mi è arrivato da lui, vabbè, non mi ha dato Daniele, io, lui e Marco Scorpio. Antonella, hai visto quello sopra? Sì, anche quello sotto. Anche quello sotto l'ho già visto, quando sono andato da Claudio un giorno. Quello sopra l'ho già visto perché l'ho messo su Facebook in vendita Massimiliano. Ce lo conosco già. Eia, eia, sì, è bella bestia. Belli tutti e due, quelli sono da collezione proprio, da tenere. Ma non lo voleva un regalo, questo è stato pagato $370 Antonelli, ma non è stato regalato, non è una radio che c'hai e che trovi tutti i giorni, a parte il fatto che c'ha di tutto di più, non le manca niente, a parte l'FM, c'ha tutto, c'ha un bel canale, questo, e poi io le avevo messo la valvola nuova e da una ventina di watt, 20-25 watt. Va bene, avessero dovuto essere a ricambiare questo e attaccare l'altro, ma comunque domani attacchiamo anche questo. Così facciamo andare anche un po' i baracchini, dai. Giusto, giusto. Gloria, io già ho sempre preferito i baracchini. Non lo so perché, sono più belli magari del Kenwood, non so, più cromati. Per esempio il Kenwood, no? Per quanto fosse funzionale, eccetera, insomma andava bene. A mamma non piaceva l'estetica, perché poi era grigio, non aveva cromature, non aveva. Aveva poi il display un po' buietto, no? Cioè, illuminato, ma non è che sia molto forte la luce dello smitter, quindi l'estetica preferiva i baracchini, mamma, soprattutto questo, il 3009, no? Quelli cromati, a lei sono sempre piaciuti i baracchini che ho preso io, perché erano cromati e con uno stile, se possiamo dire, retro, così, da. Stavano a piacere invece i 60, E vabbè, capita, dai. Io certe volte quando avevo due microfoni, quando si aveva avuto 1008 qua a fianco, no? Certe volte sbagliavo il microfono, quando era da palmo, e parlavo in un'altra banda. Bene, bene. Adesso mi mangio un po' di frutta, perché ho mangiato solo quel panino. Quindi il panino fatto così, con l'hamburger, è buono, però quelli di McDonald's sono più saporiti, non so cosa, metteranno più spezie, non lo so, hanno una ricetta particolare, perché hanno un certo sapore che a me piace, non mi dispiace nulla, anzi mi piace. Questo era più, sembrava proprio più un banale hamburger col pane, per dirtela, anche se c'era la salsa, anche se c'era... Poi sai, sul quello di McDonald's mettono un tipo di formaggio particolare, quello giallo-giallo, un giallo-arancio, si chiama, mi pare, cheddar, quel formaggio che mettono loro, che ha un certo saporino, insomma. E vabbè, dai, poi io già mangio tutto, non sono schizzinoso, non sono schizzinoso. Ok, dai, va bene, vi saluto di nuovo, ma tanto qua lo lascio acceso il baracchino, se qualcuno dopo sente Antonello di Orsi, perché qua se non ci sono film belli, potrei, se parla qualcuno qua potrei pure rientrare, ma vediamo, dai, va bene, nel caso ritenete vi salutati, buonanotte a tutti di nuovo, a domani, ciao. Qua è tutto acceso, non c'è problema, tanto ancora non è pronto, però io sono qua. Ok, ciao Marco, a dopo allora, attenti, se non c'è qualche film. Ah, ma fate di varia. La Coca-Cola è gasata. Io mi sto bevendo la birra adesso, avrei capito oggi. Dopo una settimana e mezza, ti grazie tutto. Claudio, non ti scandalizzare, già lo sai che sono un animale. Non avevo dubbi che ti hanno sentito anche nel salone. E cosa hanno detto? Chi è quel porco? No, non hanno detto niente, ti conoscono oramai. Ah, dice, ormai sanno già come sono e quindi mi ignorano pure. Vabbè, c'è cose che non bisogna fare, ma le faccio per ridere, dai. Così, dai. Va bene? Aio, ciao, ciao, ciao domani, ciao. E qua come mai sale? Aspetta che vedo dei picchi anomali. Prova, prova. Ah, perché sono vicino. Vabbè, ciao, ciao. Qua sono vicino a parte. Mi. Ecco. Ciao. Gianfranco. Tu non hai sentito niente, no? Ciao Gianfranco, che sto chiudendo, beh. Sei contento, sto usando il baracchino, sì. E ti sento più basso, ma molto più basso. Cazzo, quando sono alto mi dici che sono troppo alto, adesso mi senti basso. Baracchino, è troppo normale. No, ti sento bene, cioè bene. È un po' cuffa. Come mai? Ti è venduto anche quello che stavi usando? No, questo è il Telsas CCP140, è un baracchino base a 220. Ogni tanto così facciamo qualche escursione anche con questi, no, i tempo non si toccano. No, tocca se... Ma quando è che gli devi fare quattro colpi di pallettone a quell'animale lì? E ci sono bambini in ascolto, cavolo, sento una persona grande, un asinaccio grande, a parte che è anche un po' volatile. Però facendo queste cose, ma quando va? E cosa vuoi che ti dica? Non ne posso fare né cacio né lana. Non so cosa dire. Dai che mi hanno chiamato a mangiare, signori. Un abbraccio a tutti, a domani. Ciao. Corri allora, finché ce lo permetto, non voglio approfittare. Ciucciucciu. Ma come che c'è un film panoramico sul cielo? Vai veloce.